sorriderai e ti rivedo come sei. Incrocerai lo sguardo mio per poi dirmi addio e mentirei se ti dicessi ora vai, ora mai, ora mai. Voltandoti verso lui, indosserai sorrisi e allegria, ma senza magia non piangerai, perché non riesci a perdere mai, ma lo sai. Ho perso tutto e tu non perdi mai. Pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui. Oh, chi mi dice che sto male? Pensandoti tu sorridi voltandoti verso lui. Sorriderai. Nulla più senso ora, no, e girerai.